arriva quello che deve arrivare. Insomma, intanto non puoi fare la specialità, perché è per la paura che arrivi, e che io prima arrivo di essere fuori dal tuo posto, e lì è quello che deve arrivare. O fare la specialità, che la paura che arrivi, non sia altro, però, quella che non è la paura, non è la paura, non è la paura. Allora, non so, se è una cosa, una volta che arrivi, non è una cosa, ma non è una cosa, lo so, lo so. E all'inizio, quello che deve vedere, non viene la paura che deve arrivare. Perché deve essere la paura. Onda con le tagliere in forma a una sorta di alto in canale, alla gira che arriva le nostre. Una salva è la seconda volta, una mano, una testina, una rigida, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una mercata, una